Osvaldo chiamava Corinna con una sorta di disperazione che non si poteva attribuire a un'assenza così breve, bensì all'angoscia abituale per il suo cuore che Corinna sola aveva il potere di alleviare. La cameriera di Corinna ritornò. Ella aveva sentito i gemiti di Osvaldo e, commossa nel vederlo afflitto per la perdita della sua padrona, gli disse: «Milord, io voglio consolarvi col tradire un segreto della mia padrona. Spero che ella mi perdonerà. Venite nella camera dove dorme e vedrete il vostro ritratto». «Il mio ritratto?» gridò. «Ella lo ha lavorato a memoria», riprese Teresina, era il nome della cameriera di Corinna. «Da 8 giorni in qua si è levata ogni mattina alle 5 per poterlo terminare prima di ritirarsi in convento». Osvaldo vide questo ritratto, che era somigliantissimo e dipinto con perfetta grazia. Questa testimonianza dell'impressione che egli aveva prodotto su Corinna lo penetrò della più dolce commozione. In faccia a questo ritratto vi era un quadro superbo che rappresentava la Vergine, e avanti a questo quadro vi era l'inginocchiatoio dove pregava Corinna. Gli sguardi di Osvaldo si aggiravano con interesse attorno a quella camera in cui entrava per la prima volta. Al capezzale del letto di Corinna vide il ritratto di un uomo in età avanzata, il cui volto non aveva il carattere di una fisionomia italiana. Vicino a questo ritratto vi erano attaccati due braccialetti, uno fatto con capelli neri e bianchi e l'altro con capelli di un biondo meraviglioso. E ciò che parve a Lord Nelvil singolare e accidente, questi capelli erano perfettamente simili a quelli di Lucilla Edgermond, che egli aveva osservato con la massima attenzione 3 anni addietro a motivo della loro rara bellezza. Osvaldo considerava quei braccialetti di capelli e non diceva parola, perché era cosa indegna di lui interrogare Teresina sulla sua padrona. Ma Teresina, credendo di indovinare ciò che pensava Osvaldo, volendo rimuovere da lui ogni sospetto di gelosia, si affrettò a dirgli che da 11 anni che ella stava a servizio di Corinna le aveva sempre veduto portare quei braccialetti e che ella sapeva essere lavorati dei capelli di suo padre, di sua madre e di una sua sorella. «Sono 11 anni che voi state con Corinna?» disse Lord Nelvil. «Voi sapete dunque...» E poi subito troncò il discorso facendosi rosso per la vergogna dell'interrogazione che era per farle, e uscì precipitosamente di casa per non dire una parola di più. Nell'andarsene si rivolse più volte indietro per guardare ancora le finestre di Corinna, ma quando ebbe perduta di vista la sua abitazione, sentì tristezza, una tristezza nuova per lui, quella cioè che viene cagionata dalla solitudine. Egli provò ad andare la sera in una delle più numerose conversazioni di Roma. Cercava la distrazione, poiché per trovare delle attrattive nella meditazione occorre, nella felicità come nella sventura, essere in pace con se medesimo. La conversazione fu ben presto insopportabile a Lord Nelvil. Comprese anche meglio tutto l'incanto e tutto l'interesse che Corinna sapeva spargere nella società nel considerare il vuoto che vi produceva la sua lontananza. Egli tentò di parlare ad alcune donne che gli risposero con quelle insipide frasi convenute all'oggetto di non esprimere con verità nei suoi sentimenti, nelle sue opinioni, se talvolta coloro che se ne servono hanno in questo genere qualche cosa da nascondere. Si accostò a diversi gruppi di uomini che ai loro gesti e alla loro voce pareva che si trattenessero calorosamente a discorrere su qualche argomento importante, e egli sentì discutere i più meschini interessi nella maniera più volgare. Osvaldo si ricordava dei momenti dolci, piccanti e piacevoli che gli avevano fatto credere che queste medesime conversazioni fossero dilettevoli. Ah, egli disse nell'andarsene, ella sola qui, come in tutti i luoghi del mondo, ella sola dà la vita. Andiamo piuttosto nei luoghi più deserti finché ella non ritorni. Soffrirò con meno dolore la sua lontananza quando non vedrò più intorno a me cosa che somigli al piacere. Libro decimo, la settimana santa. Il Venerdì Santo restituì ben presto a Lord Nelvil tutti i movimenti religiosi che si lagnava di non aver sentito nei giorni precedenti. Stava per finire il ritiro di Corinna, aspettava la felicità di rivederla. Le dolci speranze dell'amore si accordavano con la pietà Non vi è che la vita artefatta del mondo che possa distrarcene interamente. Osvaldo andò alla Cappella Sistina per sentire il famoso miserere, vantato in tutta l'Europa. Vi giunse che era ancora giorno e vide quelle celebri pitture di Michelangelo che rappresentano il giudizio finale, con tutta la forza orribile di questo argomento e del talento di chi lo ha eseguito. Mentre Osvaldo era assorbito nelle riflessioni che facevano nascere tutti gli oggetti che lo circondavano, egli vide entrare nella ringhiera delle donne dietro all'inferriata che le separava dagli uomini Corinna, che non si aspettava ancora di vedere. Corinna, tutta vestita di nero, piena di languidezza per la sua assenza e così tremante, appena si accorse di Osvaldo, che fu costretta ad appoggiarsi alla balaustra per proseguire. E in quell'istante cominciò il miserere. Non era più quella musica voluttuosa e appassionata che Osvaldo e Corinna avevano sentito 8 giorni prima. Era musica tutta religiosa che consigliava di rinunciare alla terra. Corinna si pose in ginocchio dinanzi all'inferriata e rimase immersa nella più profonda meditazione. Osvaldo stesso scomparve ai suoi occhi. Gli sembrava che si fosse giunti a tal grado di effervescenza che si sarebbe preferito morire se la separazione dell'anima dal corpo non si fosse effettuata con dolore. Se venisse all'improvviso un angelo a rapire sulle ali il sentimento e il pensiero, scintille divine che ritornerebbero verso la loro sorgente, la morte non sarebbe per così dire allora che un atto spontaneo del cuore. Corinna cominciò a seguire la processione che si incamminava verso il Tempio di San Pietro, illuminato solamente da una croce, a sua volta illuminata. Questo segno di dolore, il sole risplendente nell'augusta oscurità di questo immenso edificio, è la più bella immagine del cristianesimo in mezzo alle tenebre della vita. Corinna, la giovane e bella Corinna, era in ginocchio dietro il corteggio dei preti e il tenue lume che schiariva il suo viso ne impallidiva il colorito senza indebolire lo splendore dei suoi occhi. Osvaldo la contemplava così come un quadro incantatore e come un essere adorato. Quando la sua preghiera fu terminata, si alzò, ma Lord Nelvil non ardiva di avvicinarlesi ancora, rispettando la meditazione religiosa nella quale ella era immersa. Ma ella si mosse verso di lui con un trasporto di felicità. E questo sentimento, spargendosi su tutto ciò che faceva, ella accolse con vivace allegria tutti coloro che le si accostavano in San Pietro, diventato tutt'a un tratto come il luogo di una pubblica passeggiata, dove ciascuno si dà degli appuntamenti per parlare dei suoi affari o dei suoi piaceri. Osvaldo era maravigliato di tale volubilità che faceva succedere l'una dopo l'altra impressioni tanto diverse e, benché egli fosse contento della gioia di Corinna, era sorpreso di non trovare in lei nessuna traccia delle commozioni della giornata. Egli non capiva come si permettesse che quella bella chiesa fosse in giorno tanto solenne il caffè di Roma, dove si radunavano per divertirsi. E vedendo Corinna in mezzo al suo circolo parlare con vivacità e non pensare agli oggetti dai quali era attorniata, concepì un sentimento di diffidenza sulla leggerezza di cui ella poteva essere capace. Ella se ne accorse subito e, separandosi all'improvviso dalla società, prese sotto il braccio Osvaldo per passeggiare con lui per la chiesa e gli disse: «Io non vi ho parlato mai dei miei sentimenti religiosi, permettetemi che ve ne parli oggi, forse in tale modo dissiperò le nuvole che ho veduto innalzarvi nella vostra anima». «La differenza delle nostre religioni, mio caro Osvaldo», continuò Corinna, «è la cagione del biasimo segreto che non potete fare a meno di lasciarmi intravedere. La vostra è seria e austera, la nostra è vivace e tenera. Si crede generalmente che il cattolicismo sia più rigoroso del protestantismo e ciò può verificarsi nei paesi in cui si è estinta la lotta tra le due religioni, ma in Italia non abbiamo avuto mai religiose dissensioni e in Inghilterra voi ne avete sofferte molte. Ne è venuto da questa differenza che il cattolicismo ha preso in Italia un carattere di dolcezza e di indulgenza e che per distruggere il cattolicismo in Inghilterra la riforma si è armata della maggiore severità nei principi e nella morale». Gesù non ha forse detto a Maddalena, le sarà molto perdonato perché ella ha amato molto? Queste parole sono state pronunciate sotto un cielo bello quanto il nostro. Questo stesso cielo implora per noi la misericordia divina. Corinna, rispose Lord Nelvil, come combattere mai parole tanto dolci e delle quali il mio cuore ha tanto bisogno? Ma io lo farò nonostante, perché io non amo Corinna per un giorno solo e perché spero con lei un lungo avvenire di felicità e di virtù. La religione, la più pura, è quella che fa del sacrificio delle nostre passioni e dell'adempimento dei nostri doveri un continuo omaggio all'essere supremo. La moralità dell'uomo è il suo vero culto. Il giorno seguente a questo abboccamento, il giorno di Pasqua, Corinna e Lord Nelvil erano insieme sulla piazza di San Pietro nell'istante in cui il Papa si avanza sul balcone il più elevato della chiesa e domanda al cielo la benedizione che gli va a spargere sulla terra, allorché pronuncia le parole alla città e al mondo. Tutto il popolo adunato si getta in ginocchioni e Corinna e Lord Nelvil sentirono nell'affetto provato in quel momento che tutti i culti si rassomigliano. Il sentimento religioso unisce intimamente gli uomini tra loro quando l'amor proprio e il fanatismo non ne fanno un oggetto d'odio e di gelosia. Pregare insieme in qualsivoglia lingua e rito è la più tenera fratellanza di speranze e di simpatia che gli uomini possono contrarre su questa terra. Era passato il giorno di Pasqua e Corinna non parlava di adempiere la sua promessa, confidando la sua storia a Lord Nelvil. Ferito da questo silenzio, disse un giorno innanzi a lei che gli si vantavano molto le bellezze di Napoli e che egli aveva voglia di andarvi. Corinna, penetrando nell'istante ciò che passava nella sua anima, gli propose di fare il viaggio insieme e la si lusingava di differire la confessione che esigeva da lei, dandogli questa prova di amore che doveva soddisfarlo. E dall'altra parte ella giudicava che se la conduceva seco, doveva senza dubbio avere in pensiero di consacrarle tutta la sua vita. Ella aspettava dunque ansiosamente ciò che lui le avrebbe risposto e i suoi sguardi quasi supplichevoli gli domandavano una risposta positiva. Osvaldo non poté resistere. Egli era rimasto sorpreso in principio da questa offerta e dalla semplicità con la quale Corinna l'aveva fatta. Esitò qualche tempo ad accettarla, ma nell'osservare il turbamento della sua amica, l'agitazione del suo seno, i suoi occhi pieni di lacrime, acconsentì di partire con lei per Napoli senza rendere conto a se stesso dell'importanza di una tale risoluzione. Corinna fu al colmo della gioia, poiché il suo cuore si fidò in quell'istante del sentimento di Osvaldo. Fu fissato il giorno e la dolce prospettiva di viaggiare insieme fece sparire qualunque altra idea. Si tratteneva con diletto a disporre le particolarità di questo viaggio e non vi era circostanza presa di mira che non fosse loro sorgente di piacere. Nel momento in cui Lord Nelvil usciva dalla casa di Corinna per preparare la partenza, vi giungeva il conte d'Erfeuil e seppe da lei il progetto che avevano deciso di effettuare insieme. «Dite davvero?» le disse. Come viaggiare con Lord Nelvil senza che sia vostro sposo, senza che vi abbia promesso di esserlo? E che diverreste voi se vi abbandonasse? Oh, quel che diverrei, rispose Corinna, in ogni circostanza della mia vita, se cessasse di amarmi, vale a dire la più sventurata persona dell'universo. Sì, ma se voi non vi foste compromesse in alcun modo, rimarreste illesa. Io? Illesa per nulla, gridò Corinna, quando fosse denigrato il più profondo sentimento della mia vita, quando il mio cuore si fosse sbriciolato. Il pubblico non lo saprebbe e voi potreste dissimulando nulla perdere nell'opinione degli altri, rispose il conte. E perché avere dei riguardi per l'opinione, rispose Corinna, quando ciò non fosse un vezzo di più agli occhi di colui che si ama. Si cessa di amare, riprese il conte d'Erfeuil, ma non si cessa mai di vivere in mezzo alla società e di avere bisogno di essa. Ah, se io potessi pensare, replicò Corinna, che giungerà il giorno in cui l'affezione di Osvaldo non sarà tutta per me in questo mondo, se io potessi immaginarmelo, avrei a quest'ora cessato di amarlo. Che è dunque l'amore, quando prevede, quando calcola il momento in cui non esisterà più? Se vi è qualche cosa di religioso in questo sentimento, è perché esso fa scomparire tutti gli altri interessi e si compiace come la devozione del sacrificio intero di se stesso. Che mi dite voi mai ora, soggiunse il conte d'Erfel, una persona di spirito come voi può mai riempirsi la testa di queste follie? È il vantaggio di noi uomini che le donne pensino come voi. Allora, noi abbiamo su loro molto maggiore ascendente, ma non occorre che la vostra superiorità vi sia inutile. Conviene che vi serva qualche cosa. Servirmi, disse Corinna. Ah, io le sono debitrice di troppo se ella mi fa sentire meglio tutto ciò che vi è di commovente e di generoso nel carattere di Lord Nelvil. Lord Nelvil è un uomo come tutti gli altri, riprese il conte d'Erfel. Egli tornerà nel suo paese, batterà la sua carriera, sarà finalmente ragionevole e voi vi esporrete imprudentemente la vostra reputazione con l'andare a Napoli in sua compagnia. Io ignoro le intenzioni di Lord Nelvil, disse Corinna, e forse avrei fatto meglio a rifletterci prima di amarlo, ma che importa ormai un sacrificio di più? La mia vita non dipende, ella, sempre dal suo amore per me? Io trovo, al contrario, qualche dolcezza a non lasciarmi nessuna risorsa. Non ce ne sono mai quando il cuore è ferito. Nulla di meno il mondo può credere qualche volta che ve ne rimanga, e io mi compiaccio di pensare che anche in questa veduta sarebbe completa la mia sventura se Lord Nelvil si separasse da me. E sa egli anche fino a qual punto voi vi compromettete per lui? Continuò il conte d'Erfel. Io mi sono data la maggior premura, riprese Corinna, di tenerglielo celato, e siccome egli non conosce bene gli usi del paese, così io ho potuto esagerargli un poco la disinvoltura che si permettono. Io desidero che mi diate parola di non dirgli nulla su tale proposito. Voglio che egli si senta libero, sempre libero, nelle relazioni che ha con me. Egli non può formare la mia felicità con nessun genere di sacrificio. Il sentimento che mi rende beata è il fiore della vita, e non potrebbero rianimarlo né la bontà né la delicatezza se venisse lui ad annoiarsi. Io vi scongiuro dunque, mio caro conte, a non impicciarvi del mio destino. Nulla può convenirmi di ciò che voi sapete sulle affezioni del cuore. Quel che voi dite è prudente, assai ragionevole, ragionevole e molto applicabile alle condizioni ugualmente che alle persone ordinarie, ma voi mi fareste innocentemente assai male volendo giudicare del mio carattere in coerenza di quelle grandi spartizioni comuni per le quali vi sono massime belle e fatte. Io soffro, io godo, io sento alla mia usanza e bisognerebbe osservare me sola se si volesse influire sulla mia felicità. L'amor proprio del conte d'Erfel era un po' colpito per l'inutilità dei suoi consigli, nonché per la prova di grande amore che ella dava a Lord Nelvil, rinunciando a pensare di compromettersi. Egli sapeva bene di non essere amato da lei e sapeva ugualmente che Osvaldo, al contrario, lo era, ma gli era spiacevole che tutto ciò fosse comprovato così pubblicamente. Vi è sempre nelle buone avventure di un uomo presso una donna qualche cosa che dispiace anche ai migliori amici di quest'uomo. Io vedo di non poter concludere nulla, disse allora il conte d'Erfel, ma quando voi sarete disgraziata, allora vi rammenterete di me. Intanto parto da Roma, giacché non ci sarete più né voi né Lord Nelvil. Mi ci annoierei troppo lontano da voi, ma io vi rivedrò sicuramente l'uno e l'altra, in Scozia o in Italia, perché aspettando di meglio ho preso gusto per i viaggi. Scusate i miei consigli, vezzosa Corinna, e credete sempre al mio ossequioso attaccamento per voi. Corinna lo ringraziò e si separò da lui con sentimento di dolore. Ella lo aveva conosciuto nello stesso tempo di Osvaldo e questo ricordo formava tra lei e lui legami che le dispiaceva vedere rotti. Ella si comportò come appunto aveva annunciato al conte d'Erfel. Alcune inquietudini turbarono un momento la gioia con la quale Lord Nelvil aveva accettato il progetto del viaggio. Temé che la partenza per Napoli non potesse far torto a Corinna e volle ottenere da lei il suo segreto prima di partire. Per sapere con certezza se essi erano forse separati da qualche ostacolo invincibile, ma ella gli dichiarò che non si sarebbe spiegata su tal punto se non a Napoli. Allorché gli amici di Corinna, e specialmente il principe di Castelforte, Furono consapevoli della sua risoluzione, ne risentirono grande pena. Il principe di Castelforte soprattutto ne provò tale dolore che risolse di andare a ritrovarla poco tempo dopo. Non vi era certamente della vanità, ponendosi in tale modo nel corteggio di un amante preferito, ma quel che non poteva tollerare era il vuoto orribile dell'assenza della sua amica. Egli non aveva amico che non incontrasse in casa di Corinna e non andava mai in altra casa fuorché nella sua. La società che si radunava intorno a lei si doveva disperdere quando ella non ci fosse stata più e sarebbe diventato impossibile porne insieme i rottami. Il principe di Castelforte era poco assuefatto a vivere in seno alla sua famiglia. Benché fosse spiritoso, lo studio lo affaticava. L'intera giornata, dunque, sarebbe stata per lui di insopportabile peso se non fosse venuto e sera e mattina in casa di Corinna. Ella partiva, egli non sapeva più che cosa sarebbe diventato e fissò in segreto di avvicinarsi a lei come amico che nulla pretenda, ma che è sempre inteso a consolarci nella sventura. E tale amico deve essere ben sicuro che giungerà il momento di rendersi conto di lui. Corinna provava un sentimento di malinconia nel rompere in tale modo tutte le sue abitudini. Ella si era formata da qualche anno in Roma una maniera di vivere che le piaceva. Ella era il centro di tutti i celebri artisti e gli uomini illuminati che vi si trovavano. Perfetta indipendenza di idee e di abitudini somministrava molte attrattive alla sua esistenza. Che cosa stava mai per diventare? Se era destinata ad avere Osvaldo in sposo, conveniva che egli la conducesse in Inghilterra con sé. E come vi sarebbe stata lei giudicata là? Come lei medesima avrebbe potuto stringersi in questo genere di vita così differente da quello che aveva abbracciato nel corso di 6 anni? Ma queste riflessioni non facevano che attraversare il suo spirito e il suo amore per Osvaldo ne cancellava sempre le tracce. Ella lo vedeva, lo ascoltava e non contava le ore che dalla sua lontananza o dalla sua partenza. Chi sa mai contrastare con la felicità? Chi mai non l'accoglie quando gli viene incontro? Corinna, soprattutto, aveva poca percezione, né la speranza né il timore erano fatti per lei. La sua sicurezza nell'avvenire era confusa e la sua immaginazione le faceva su tale proposito poco bene e poco male. La mattina della sua partenza, il principe di Castelforte passò da lei e con le lacrime agli occhi le disse: Ritornerete voi a Roma? Oh mio Dio, sì, ella rispose. Noi saremo qui tra un mese. Ma se voi sposate Lord Nelvil, bisognerà lasciare l'Italia? Lasciare l'Italia, disse Corinna e sospirò. Questo paese, continuò il principe di Castelforte, in cui si parla la vostra lingua, in cui vi si intende così bene, in cui voi siete così vivamente ammirata, e i vostri amici, Corinna, i vostri amici. Dove sarete voi amata come qua? Dove troverete voi l'immaginazione e le belle arti che vi piacciono tanto? È dunque un solo sentimento che costituisce la vita? Non sono forse la lingua, gli abiti, i costumi, ciò che compone l'amore della patria, quell'amore che fa provare il male del paese, terribile dolore degli esiliati? Ah, che mi dite voi? Esclamò Corinna. Non l'ho io forse provato? Non è questo dolore che ha deciso della mia sorte? Ella guardò tristemente la sua camera e le statue che l'adornavano, poi il Tevere che scorreva sotto le sue finestre e il cielo la cui bellezza sembrava invitarla a rimanere. Ma in quell'istante Osvaldo passava a cavallo sul ponte Sant'Angelo. Sant'Angelo, egli veniva con la rapidità del lampo. Eccolo! Gridò Corinna e appena detta questa parola egli era già arrivato. Ella gli corse incontro e tutti e due, impazienti di partire, si affrettavano di montare in carrozza. Corinna diede tuttavia amichevole addio al principe Castelforte, ma le sue parole cortesi si perdettero in aria, in mezzo alle grida dei postiglioni, al nitrire dei cavalli e a tutto quel fracasso delle partenze, qualche volta triste, qualche volta inebriante, secondo il timore e la speranza che ispirano i nuovi cambiamenti del destino.